Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, eccoci come ogni giorno insieme per una nuova puntata di Obiettivo Salute. Oggi io trasmetto da casa, anche questo è un segno di come le radio si stiano organizzando. E a proposito di radio, mi raccomando, abbiamo un appuntamento straordinario alle 11 perché tutte le radio italiane parteciperanno unite alla Radio per l'Italia, questo flash mob sonoro per cantare tutti insieme all'unisono lungo tutto il nostro bellissimo e straordinario paese, insomma distanti ma uniti. E allora apriamo intanto oggi la nostra puntata collegandoci con Bergamo, l'epicentro dell'emergenza coronavirus. In linea con noi il professor Stefano Fagioli, che è direttore del Dipartimento di Medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Professore, grazie per essere con noi, buona giornata. Buona giornata a tutti, buona giornata a te Nicoletta. Professore, lei ieri ha lanciato un appello internazionale su Facebook, vuole condividerlo con noi? Beh, come oramai sapete fin troppo bene, nel nostro ospedale, il Papa Giovanni XXIII, qui a Bergamo, siamo sotto una formidabile pressione oramai dal 21 di febbraio. Fortunatamente il personale sanitario sta dando prova di straordinarie professionalità e dedizione, commovente direi. E in questa emergenza ovviamente necessitiamo di tutto l'aiuto possibile, particolarmente di personale infermieristico, che è quello che sopporta il più gravoso impatto nella gestione della quotidianità, e ovviamente presidi quali ventilatori e dispositivi di protezione per gli operatori sono fondamentali per noi. Che risposta ha avuto professor Fagioli e quale si augura di avere? Sono già arrivate numerosissime donazioni sia dall'Italia che dall'estero, e cosa ancora più straordinaria, numerosi operatori sanitari si sono proposti per venire a darci una mano. Li stiamo mano a mano mappando, dando la priorità ovviamente al personale infermieristico ed anestesisti, che sono quelli di cui abbiamo grande necessità. Professore, però lei ieri ha rivolto anche un appello a tutti noi, perché i comportamenti individuali fanno la differenza, ricordiamolo sempre, proprio per sottolineare che siamo parte di una grande squadra e il risultato lo portiamo a casa se ciascuno di noi fa la sua parte. Lo sport insegna in questo caso. Assolutamente, come ho detto, ma come dicono tutti oramai, stare a casa è l'atto più importante e rivoluzionario che si possa facilmente compiere da parte di ciascuno di noi, perché questa emergenza non si potrà risolvere solo con l'attività del personale sanitario. Serve che tutta la popolazione faccia la sua parte. Solo il rispetto assoluto delle norme di isolamento ci permetterà di raggiungere una riduzione dei contagi che possa impattare su questa emergenza. Per cui, e insisto, anche se l'abbiamo ormai detto milioni di volte, per favore state a casa. Prof, lei è in quarantena perché il Covid naturalmente non l'ha risparmiato, d'altronde per chi lavora in prima linea il rischio è molto alto, questo è un problema davvero serio a cui si sta cercando di trovare soluzioni. Qual è il suo punto di vista riguardo? Ma io sto bene, oramai sono in via di guarigione come la stragrande maggioranza delle persone colpite. Certamente gli operatori sanitari sono i più esposti, ma il punto cruciale è che nessuno può considerarti protetto se non attraverso l'isolamento. Professore, lei ha superato l'infezione, guarito, è restato a casa, adesso sta bene, guarito. Ma è vero che il virus fa differenze di genere? Sembra che la sintomatologia sia più severa negli uomini. Ci sono delle evidenze? Ma benché i primi dati pubblicati indicano che ci siano numeri analoghi di infetti tra maschi e femmine, in qualche dato sembra emergere una differenza in termini di vulnerabilità e mortalità, cioè più maschi sembra tendano a morire o ad avere andamenti più severi, forse in base a differenze ormonali, genetiche o comportamentali, il fumo, l'alimentazione, il sovrappeso corporeo. In realtà i dati sono ancora troppo preliminari per essere consistenti, però se c'è un sesso forte in questo caso non sembra essere quello maschile. Professor Fagioli, prima di salutarla, che cosa le ha lasciato questa esperienza? Lo chiedo al medico, ma lo chiedo anche a Stefano Fagioli. Ma una cosa meravigliosa è la sensazione di essere circondato da colleghi e operatori sanitari di straordinaria qualità, professionalità, di professione e umane, e questo è straordinario. L'altra, come uomo, è la convinzione che alla stupidità umana purtroppo non c'è limite, e qualche giorno ancora stiamo continuando a vedere questa cosa. Grazie professore, ci sentiamo presto, buon lavoro. Grazie, un abbraccio forte e grande. Bene, anche oggi rispondiamo alle vostre domande che arrivano alla nostra mail oppure via messaggio, via WhatsApp 349-238-66. È tornata a trovarci la professoressa Paola Cinque dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano della CIMIT. Buongiorno professoressa. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Bentornata, intanto ne approfitto per dirvi che in edicola oggi con il Sole 24 Ore c'è la guida tutto sul coronavirus, dove una sezione proprio dedicata alle risposte che gli esperti della CIMIT hanno dato alle vostre domande, alle nostre domande, e quindi mi raccomando, un appuntamento imperdibile. Professoressa, nonostante in queste ultime settimane si parli sempre solo di coronavirus, alcuni concetti non riusciamo ancora a metabolizzarli, a tradurli in pensieri, in gesti quotidiani, restano dei dubbi, delle incertezze, ogni giorno ci facciamo molte domande, e molte di queste riguardano i sintomi, l'igiene, i comportamenti da tenere, le attenzioni, le precauzioni da adottare anche a casa nei confronti dei nostri familiari. Io, professoressa Cinque, credo che tutto questo sia normale, perché dobbiamo imparare a convivere con questo nemico invisibile da cui dobbiamo difenderci proprio in ogni istante, senza mai abbassare la guardia, ma al tempo stesso tenere un po' il morale un po' su, un atteggiamento positivo. È d'accordo? Assolutamente d'accordo, anche perché al momento non abbiamo strumenti ancora attivi, efficaci noi per combattere questo virus. Adesso dobbiamo solo pensare di difenderci, però anche in questa cosa che è apparentemente semplice dobbiamo metterci tutta la convinzione e tutta la consapevolezza, sapendo come possiamo comportarci nel modo giusto, perché vorrei riprendere quanto detto da Stefano Fagioli prima: qui siamo davvero in una situazione in cui ogni singolo individuo ha una responsabilità, può fare molto, non possiamo più delegare nessuno, ognuno per sé può fare qualcosa di veramente importante. Stare a casa, perché spesso si dice scendo solamente un attimo, perché tanto guardo fuori dalla finestra, è deserta la via, quindi faccio due passi, stiamo a casa. Stiamo a casa senza se, che senza è ma. Sempre stiamo una bella idea. Ecco, professoressa, apriamo il grande capitolo dei sintomi. Se ci mettiamo in ascolto, se noi siamo concentrati sulla nostra condizione di salute, probabilmente avvertiamo, anche se sfumati, dei lievi disturbi che ci possono creare preoccupazione. Un ascoltatore proprio mi ha scritto: mi sento un po' come un malato immaginario. Da quando resto a casa mi misuro ogni giorno alle 17 la febbre. Basta una linea in più e mi preoccupo, non mi riconosco più, non sono mai stato così ansioso sulla mia salute. Professoressa, è facile riconoscersi nel nostro ascoltatore, ma ci aiuta con i suoi consigli a vedere le cose con oggettività, senza troppa apprensione. La certo. Febbre, ecco, questa benedetta febbre è un sintomo, è sempre presente? La febbre è il sintomo principale, il sintomo più frequente, ed è presente nella quasi totalità delle persone che sviluppano l'infezione. Teniamo presente che è una febbre che può essere poche lineette, come si dice, può essere una febbre Quanto? Molto Cosa alta. Cosa vuol dire poche lineette? Poche lineette, 37,2, 37,3. Può essere invece una febbre molto più alta e preoccupante, che ti fa stare anche molto peggio, oltre i 39 gradi per intenderci. Teniamo anche presente che può esserci un po' di febbre, può scomparire, può ritornare all'interno, diciamo, della stessa storia, nella stessa persona. Però è un sintomo che comunque va rilevato e di cui bisogna tenere conto. E un altro sintomo che spesso è presente è la tosse, che di solito è una tosse secca, cioè non abbiamo catarro. E poi c'è anche tutta una serie di sintomi, diciamo, accessori, che però sono anche questi molto presenti, che possono essere rappresentati per esempio dal male dei muscoli, delle ossa, male alla schiena, male alle gambe e soprattutto se c'è la febbre alta, una grande spossatezza, una stanchezza molto forte e una grande spossatezza. Diciamo che questi sono i sintomi principali di qualsiasi sindrome influenzale, che in alcuni casi nell'infezione da coronavirus si possono presentare in modo un po' più pesante. Abbiamo anche problemi, che so, come magari nausea, inappetenza. È chiaro che poi con la febbre alta subentrano anche tutte queste cose, magari un po' di diarrea. E la perdita di olfatto, professoressa Cinque, si legge in questi giorni che la perdita dell'olfatto e la nausea rientrano un po' nella sintomatologia, è corretto? Sì, è corretto. È stato riportato da molte persone con l'infezione da coronavirus, anche se è una cosa che all'inizio può essere un po' confusa, perché chiaramente magari certo, avendo la tosse, non stando tanto bene, e poi ecco, per carità, non attocchiamoci adesso questo sintomo, davvero se sto bene e mi sembra di non riconoscere più il gusto delle cose, insomma direi che siamo tranquilli comunque. Alla fine, professoressa, di tutto... noi ci fermiamo perché diamo la linea al traffico, poi ritorniamo insieme naturalmente con le domande che abbiamo e stiamo raccogliendo dai nostri ascoltatori. 349-238-6666 ci accompagna naturalmente la professoressa Cinque. Ritorniamo subito dopo con voi, a tra poco. Obiettivo salute. Siamo tornati con le nostre domande, pronta a rispondere alle nostre domande, ai dubbi che stanno arrivando al 349-238-6666, la professoressa Paola Cinque del San Raffaele di Milano. Professoressa, abbiamo descritto i sintomi, posso prendere dei farmaci? Mi scrive Matteo, se ho qualche linea di febbre, ho la tossetta, uso i farmaci da banco che ho a casa? Direi la classica tachipirina per far scendere la febbre. E siamo tranquilli. Si può prendere. E naturalmente due cose molto importanti a questo punto. Se non stiamo bene, se abbiamo un po' di febbre, se abbiamo la febbre, la tosse, stiamo a casa naturalmente, però nel dubbio che sia un'infezione da coronavirus, un dubbio molto alto di questi tempi, ci comportiamo come se avessimo l'infezione. Cioè, se stiamo a casa, cerchiamo di isolarci a casa. Quindi usare tutte le precauzioni che userebbe una persona se avesse una diagnosi di infezione da coronavirus. Chiaramente non tutti noi abbiamo la possibilità di vivere in un castello, si fa quello che si può, ci si certo, chiude, tra virgolette. Mettiamo la mascherina se viviamo in famiglia? Certo, io direi di sì, però l'ideale è chiudersi in una stanza, in una camera da letto, se c'è la possibilità di avere un bagno proprio si utilizza quello. E comunque sì, si esce nei luoghi comuni che devono essere sempre aerati, però possibilmente in assenza delle altre persone, se si riesce a mangiare nella propria stanza facendosi portare il cibo fuori dalla porta, andarla a prendere, va bene, se no ci si alterna a mangiare naturalmente certo, utilizzando piatti, stoviglie, tutte cose diverse, insomma sono tutte cose a cui si può arrivare con il buon senso e poi comunque se ne può parlare più nei dettagli, però il comportamento corretto è questo. La seconda cosa importante che vorrei dire, oltre a questi sintomi, diciamo, preoccupanti per sé, comunque non che ci devono spingere ad andare in ospedale, c'è una cosa che dobbiamo essere pronti a riconoscere, senza paura, ma proprio in termini di consapevolezza verso noi stessi e verso gli altri. Se cominciamo a avvertire una mancanza di respiro, allora ecco lì dobbiamo allarmarci, non dobbiamo sottovalutare questo aspetto. Mancanza di respiro, in casa faccio fatica magari a camminare per il corridoio, mi alzo dalla sedia, mi sposto per andare in bagno, insomma c'è un po' di fiatone che normalmente non ce l'avevo, provo a fare un respiro profondo, non ce la faccio. Ecco, questi sono i sintomi che ci devono allertare a prendere contatto con il nostro medico di base, con i numeri di base, chiaramente se sono abbastanza importanti per farsi portare in ospedale si deve chiamare un'autolettica per recarsi a un posto di primo soccorso. Professoressa 5, diamo la parola a Daniela da Modena e poi a Lisa, la parola, leggo il loro messaggio. Daniela ci scrive: chi ha patologie autoimmune è più esposto al contagio, professoressa 5? Ma esposizione al contagio direi che è universale, su chi poi ha delle particolari patologie autoimmune, se può avere un decorso diverso dagli altri, queste sono cose che ancora non siamo in grado di dire. Gli abiti che indossa mio marito, ci scrive Lisa, che va a lavorare tutti i giorni in una ditta, devono essere lavati? Questo, professoressa, è un quesito che ci porta anche ad allargare il discorso agli abiti che indossiamo anche quando torniamo da fare la spesa settimanale. Dobbiamo uscire il meno possibile. Molti ascoltatori mi scrivono: le scarpe fuori dalla porta, ma gli abiti vanno lavati, appesi fuori, disinfettati, che ne facciamo? Beh, sarebbe, diciamo, una buona norma, soprattutto di questi tempi, gli abiti che vengono utilizzati per uscire, tanto più per andare al lavoro o comunque in quelle situazioni dove ci esponiamo comunque all'esterno, tanto più se abbiamo dei contatti con altre persone, sarebbe una bella cosa, insomma, toglierseli insieme alle scarpe appena si arriva a casa. Chiaramente il fatto di lavarli tutti i giorni dipende dal tipo di contatto che abbiamo quando indossiamo questi abiti, certamente. Ecco, però il cappottino con cui usciamo, basta metterlo in balcone? Ma io direi di sì, lo possiamo attaccare fuori dalla porta e cappottino in balcone, vicino alla porta, insomma, diciamo, non giriamo per la cucina col cappotto e con le scarpe, ci togliamo il cappotto, ci togliamo le scarpe, andiamo a lavarci le mani, ricordiamoci sempre. Mani le laviamo più volte al giorno, anche quando siamo a casa, vanno sempre lavate accuratamente, professoressa 5. Quindi certo, per bene, non abbiamo fretta, il tempo minimo, diciamo, stabilito, insomma, deve essere almeno di 20-30 secondi, ecco, non abbiamo fretta, ce le laviamo bene, incrociando bene le dita quando ce laviamo, cioè dobbiamo avere lo strato di sapone che circonda bene tutte le dita, un'operazione molto semplice che va fatto più volte possibile durante il giorno. Professoressa 5, un'ultima domanda prima di salutarlo. Una volta guarito dal coronavirus, possiamo essere contagiati? Si può ricadere nella stessa patologia? Ma probabilmente no, per quanto ne sappiamo non ci sono stati casi di ricadute così importanti da avere una valenza reale. Ci sono state delle segnalazioni della persona che è guarita e poi si è ritrovata con la febbre, però sono casi isolati che devono essere verificati, magari semplicemente una malattia che si è protratta. Se questo fosse veramente una cosa importante, con tutte le persone guarite da coronavirus che abbiamo adesso, avremmo già delle segnalazioni. Per il momento non ce ne sono. Non ce ne sono. Professoressa 5, io la ringrazio. Ma per la sua disponibilità. A lei e grazie a voi. Ricordo che in edicola, insieme al Sole 24 Ore, trovate la guida sul coronavirus, dove ci sono, tra le altre tanti articoli, anche le risposte degli esperti della CIMIT. Alle 11 il flash mob sonoro per cantare tutti insieme. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute trovate come sempre tutte le indicazioni, consigli dei nostri esperti, Alberto Pellai, il nostro medico quasi cuoco, che ci lascia ogni giorno una ricetta, Lavatelli con le favole, Maria Giovanna Luini. E quindi, che dire, restiamo divisi ma uniti, lontani ma vicini. Vi aspetto, buona giornata, ringrazio Lorenzo Nespoli in assistenza, Laura Vanossi in redazione e Peter Bescapè in regia alla parte tecnica.